Cano, che succede? È la stampa, belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. È il momento per un urgente e immediato cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Hamas deve subito bloccare i suoi attacchi insensati ai danni dei civili israeliani e Israele deve fermare le sue operazioni a Gaza. Ulteriori violenze non condurranno a nulla se non all'inasprimento del circolo vizioso fatto di attacchi e controattacchi sempre più gravi e senza fine. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi stamane Carmelo Lauricella. Io vi ho letto l'intervento che leggiamo sul Corriere della Sera di un intellettuale, Amos Oz, che insieme all'amico David Grossman è uno degli intellettuali più influenti di Israele sulla nuova, sì, perché sarà vecchio il caso israelo-palestinese, ma questa è una nuova guerra tra Israele e i palestinesi. E scrive ancora l'intellettuale israeliano: l'unico obiettivo delle operazioni militari di Israele e Gaza è di raggiungere la fine degli attacchi contro i propri cittadini e la sua società civile. Va detto che non deve esistere alcun altro obiettivo che Israele possa raggiungere tramite il ricorso alla forza militare. D'altra parte, scrive Oz, noi tutti dobbiamo adattarci all'evidenza della profonda divisione esistente all'interno del campo palestinese e prendere atto che oggi convivono due Palestine, una della striscia di Gaza e l'altra in Cisgiordania. Gaza è stata sequestrata da una banda di estremisti islamici che si muovono sulla falsa riga dei talebani e sono sostenuti dall'Iran, il quale a sua volta da tempo proclama la necessità di perpetrare un grande genocidio ai danni di Israele. La Cisgiordania è controllata dall'autorità palestinese, che si è dimostrata pragmatica e moderata. Detto ciò, va però anche ricordato che Gaza resta un luogo di immense povertà, disperazione e miseria. Ed appare dunque ancora più assurdo e tragico che questa comunità di profughi palestinesi sia controllata da un gruppo di cinici assetati di guerra, dediti alla causa della distruzione di Israele, e che considerano qualsiasi cittadino israeliano come una loro vittima più che legittima. Gaza merita molto meglio di Hamas. Queste le parole dello scrittore Amos Oz sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera invece ha affidato, diciamo, l'orientamento su questa questione del giornale, in qualche modo il commento, diciamo, di prima pagina, l'editoriale, a Piero Ostellino, che parla di opportunità persa. Con la decisione di ritirare le truppe israeliane da Gaza, Ariel Sharon aveva offerto ai palestinesi un'opportunità. Al tempo stesso, però, il passaggio della sua amministrazione nelle loro mani aveva creato obiettivamente le premesse di una loro spaccatura. L'opportunità consisteva nella possibilità che le fazioni nelle quali il movimento era diviso abbandonassero la lotta armata, si unificassero sotto al-Fatah e partecipassero al processo di pace con Israele, voluto da USA e Europa. Le premesse della crisi stavano nell'eventualità di una acuirsi della divisione tra integralisti contrari a soluzioni di pace, movimento palestinese moderato e governi islamici favorevoli. Tutto ciò non è avvenuto. Il successo di Hamas nelle elezioni per l'amministrazione di Gaza nel gennaio 2006, la rottura nel giugno 2007 dell'accordo con al-Fatah raggiunto solo poco più di 3 mesi prima, nel febbraio dello stesso anno, ne erano state le avvisaglie. Questo dice e anche Piero Stellino aggiunge: c'è un convitato di pietra che blocca ogni possibilità di pace. È l'Iran, che sostiene il rivendicazionismo di Hamas, che con la sua corsa all'armamento atomico inquieta Israele, l'Occidente e pressoché l'intero mondo arabo. Questa è la tesi che troviamo sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera riporta in prima pagina, o come richiamo o come anticipazione di prima pagina, anche altri servizi importanti, per esempio 2 interviste, una a Violante, più garanzie, stop ai giudici autogestiti. Questo farà come dire, indispettire il CSM, perché dice Violante bisogna agire sui poteri di organizzazione degli uffici giudiziari, i capi delle procure hanno grandi poteri, forse bisognerebbe vedere come li utilizzano. Luciano Violante interviene così nel dibattito sulla giustizia e si chiede qual è il giusto contrappeso per una magistratura indipendente in un sistema democratico. La risposta è intervenire sui meccanismi di nomina del CSM, così la magistratura non sarebbe più un settore totalmente autogestito. Mentre Ignazio La Russa, il ministro Ignazio La Russa, dice la linea dura con Gheddafi a proposito degli sbarchi non ha senso, sulla questione immigrazione non dobbiamo fare i duri con i libici, non serve a niente, dice il ministro della difesa Ignazio La Russa, forse rivolgendosi a Maroni, adesso non so a chi si riferisca La Russa, che aggiunge sono sicuro che Gheddafi rispetterà gli accordi, solo che i suoi sono tempi un po' levantini, secondo il ministro è possibile che Tripoli consenta che i barconi dei migranti partano a ripetizione per fare pressione sul nostro governo. In effetti siamo in ritardo sui tempi previsti dall'accordo di agosto che impegnava l'Italia a versare alla Libia 5 miliardi di dollari. E ancora sul Corriere della Sera, arresti domiciliari, beh, è curiosa questa notizia, in panchina. Dice Marco Mologni, ci racconta, condannato al soggiorno obbligato su una panchina, è successo a un 35enne arrestato dopo un furto, l'ennesimo, che il padre e il fratello, esasperati dai continui problemi del giovane, con la giustizia non hanno voluto accoglierlo in casa. Così un magistrato l'ha confinato su una panchina del parco pubblico di via Trieste a Limbiate, in provincia di Milano. Il ladruncolo è rimasto 7 giorni e 7 notti avvolto in una coperta nella sua abitazione tra virgolette ovviamente, finché un'amica impietosita non l'ha accolto in casa sua. Insomma, anche questa è una storia curiosa. E poi c'è la vignetta di Giannelli, avete sentito il monito di Ratzinger, è molto importante, contro il lavoro precario, e c'è una vignetta di Giannelli sul Papa Ratzinger, Benedetto XVI contro il precariato, è immorale che un giovane possa aspirare a un lavoro stabile soltanto ogni morte di Papa, e quella vignetta, sono 3 vignette, 3 disegni, quando andate a vedere soltanto ogni morte di Papa c'è un Papa Ratzinger che fa, come dire, le corna, nel senso che dice insomma come si fa quando non si vuole che accada qualcosa. E appunto la morte di un papa, questo sul Corriere della Sera. E adesso invece voglio vedere il quotidiano La Repubblica. Il quotidiano La Repubblica invece affida a Bernardo Valli il commento su quello che sta avvenendo a Gaza, pronto l'attacco di terra. Intanto questa è la notizia, diciamo, che alcuni quotidiani portano, alcuni in modo dubitativo, La Repubblica in modo esplicito, oltre 300 morti, emergenza umanitaria, Hezbollah, guerra a Israele. Intanto i raid non si fermano, tank sul confine, richiamati i riservisti, quindi potrebbe voler dire questo un attacco di terra, e quindi vorrebbe dire un corpo a corpo, diciamo, alla ricerca degli uomini di Hamas. Questo potrebbe essere il nuovo scenario di guerra, il terribile scenario di guerra. Bernardo Valli, una trincea per Obama. Ecco, Bernardo Valli vede la cosa da un punto di vista della politica internazionale e dice, insomma, è proprio in questi giorni, anzi in queste ore, che i negoziati israelo-palestinesi più auspicati che annunciati dalla conferenza di Annapolis organizzata da George Bush nel novembre 2007 avrebbero dovuto dare i primi frutti. È con un misto di sarcasmo e di collera che uno ricorda l'ultimo degli innumerevoli tentativi falliti di gettare le basi per una pace in Medio Oriente. Il fallimento di quei negoziati, in realtà mai cominciati, è adesso celebrato nel sangue. L'iniziativa lanciata con solennità dal Presidente degli Stati Uniti nascondeva un bluff di cui tutti erano consapevoli, ben sapendo in cuor loro i presenti alla cerimonia di Annapolis, americani, arabi, palestinesi compresi e israeliani, che non era consentita alcuna speranza. I due campi a confronto erano e sono frantumati al loro interno, vale a dire divisi in fazioni o partiti in aperta concorrenza e quindi incapaci di affrontare compatti un negoziato. Questo scrive Bernardo Valli sulla Repubblica. È da questo dato che bisogna partire per capire come si è giunti al massacro cominciato sabato e ancora in corso. Così conclude Valli, tra le priorità di Obama, oltre la crisi Barack Obama, il nuovo presidente degli Stati Uniti, oltre la crisi economica all'Iraq e l'Afghanistan, c'è adesso anche il conflitto israelo-palestinese, che sembrava relegato nell'ombra e spetta proprio al presidente degli Stati Uniti, di cui Israele è il principale alleato in Medio Oriente ed anche qualcosa di più, riproporre, anzi imporre, l'idea di un vero dialogo tra palestinesi e israeliani, idea per ora morta e ibernata. La difficoltà per Obama, come per i suoi predecessori, anche democratici, consisterà nel sapere e poter essere un arbitro deciso e imparziale. Questo sul Bernardo Valli sulla Repubblica a proposito della nuova guerra israelo-palestinese. Gaza, l'assedio di Israele, il quotidiano La Stampa, bombe sugli arsenali di Hamas, 300 morti, il Papa, violenza inaudita, questi titoli. E Boris Biancheri che se ne occupa, la novità può venire dal Cairo, ecco un'altra chiave di lettura di quello che sta avvenendo sul piano politico in questi giorni. Siamo talmente abituati all'insorgenza inaspettata di una crisi nella precaria convivenza tra israeliani e palestinesi, di un gesto che spazza via le laboriose speranze di dialogo e di pace, o di un evento che fa temere di essere giunti ormai alle soglie di una guerra guerreggiata, che gli sviluppi drammatici di questi giorni, la ripresa dei lanci dei razzi Qassam contro Israele, la durissima reazione militare che ne è seguita, sembrano in fondo una ripetizione di quanto è già avvenuto in passato. Viene da pensare che a questa ennesima crisi farà seguito un ennesimo ritorno indietro. Tutte le diplomazie dei paesi non direttamente coinvolti, e anche quelli di alcuni paesi che si considerano coinvolti, invocano come prima cosa l'arresto della spirale di azioni e reazioni e il ritorno allo status quo. Per fragile che fosse, forse sarà così, ma può darsi invece che questa crisi sia diversa e che allo statu quo, per un verso o per l'altro, non si torni. Intanto è da dire che tre protagonisti di questo gioco sanguinoso sono alle soglie di una prova elettorale che dovrà confermare o rigettare le loro posizioni al potere. Sì, qualche giornale dice infatti che, per esempio, in Israele i progressisti, i sondaggi danno in crescita forti i progressisti in queste ultime ore dopo la decisione di un intervento così massiccio di Israele nella striscia di Gaza. Così per Israele, dove la successione di Olmert apre prospettive incerte nel complicato schieramento delle forze politiche israeliane. Questo scrive sul quotidiano della stampa Boris Biancheri a questo proposito, e anche un altro scrittore, Abraham Joshua, noto per alcuni romanzi, tra cui per esempio uno degli ultimi, Fuoco Amico, parla di tregua subito. Ciò che sta avvenendo in queste ore nella striscia di Gaza era quasi inevitabile, e dice lo scrittore israeliano: la brutalità con cui Hamas ha posto fine alla tregua non ha lasciato altre scelte a Israele. Questo scrive Joshua. Vi dicevo che ci sono una serie di servizi, intanto, oltre alla pioggia di bombe, almeno 300 morti, una tregua subito, dobbiamo parlarci. Hamas si prepara a combattere come Hezbollah, e questo speriamo che sia solo una minaccia e non una realtà, perché sennò davvero tutto si intensifica. Il quotidiano La Stampa, invece, per parlare di un altro argomento, intervista Innocenzo Cipolletta. E a proposito dei trasporti, a proposito delle ferrovie dello Stato, di cui Innocenzo Cipolletta è il numero uno in questo momento, si è parlato spesso di ferrovie dello Stato sull'orlo della crisi, addirittura qualcuno le aveva paragonate all'Italia. Dice Cipolletta, leggiamo il virgolettato che poi è il titolo di questa intervista: sono io il matto che ha risanato le ferrovie. Quando nel 2006 sono arrivato qui, tutti mi citavano la battuta di Andreotti sui manicomi, pieni di gente convinta di essere Napoleone o di poter risanare le ferrovie. E invece chiudiamo il 2008 con uno sostanziale pareggio, un disavanzo di 60 milioni. Nel 2007 le perdite erano di 409 milioni, l'anno prima 2,115 miliardi. E per migliorare i conti, a differenza delle precedenti gestioni, non abbiamo potuto usare riserve di bilancio. Ecco, quindi, insomma, c'è questa intervista Interessante, dunque Innocenzo Cipolletta, presidente delle ferrovie, tutto a posto. No, ci rendiamo conto di non aver risolto i problemi delle ferrovie, ma queste sono le basi. La gestione ordinaria oggi è attiva, dovendo fare i conti con 400 milioni di oneri finanziari dovuti agli squilibri del passato. L'indebitamento dell'FS ammonta a 9 miliardi. Siamo riusciti a risanare l'azienda e lanciare l'alta velocità. E allora perché tutti si lamentano? In un paese con grandi problemi di mobilità ci sono molte probabilità di incappare in inconvenienti. Con i treni meno che con altri mezzi, nell'immaginario della gente, il treno rimane l'unico mezzo che dovrebbe non avere problemi, questo dice Innocenzo Cipolletta. Voglio segnalarvi sulla stampa questo volto, diciamo così, questo muso fotografato in prima pagina di uno stambecco. Il gran paradiso lascia morire gli stambecchi, gli animali sotto la neve senza cibo. I guardaparco dicono: non possiamo farci niente. Sì, è davvero, come dire, tenera e triste questa immagine, insomma, di questo stambecco che sembra soffrire di fame, insomma, a freddo, insomma, una cosa brutta. Civitavecchia, schianto in auto con 4 vittime, e all'alba centinaia di genitori corrono in ospedale. Ditemi che non c'è mio figlio. 4 giovani sono morti, uno è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all'alba a Civitavecchia. I 5 ragazzi tra i 16 e i 21 anni, leggiamo sempre la stampa, stavano tornando a casa dopo una notte in discoteca. La Nissan Micra su cui viaggiavano è precipitata dal cavalcavia. Al mattino, appena si è diffusa la notizia, tanti genitori si sono precipitati all'ospedale San Paolo, preoccupati per i figli che avevano passato la notte fuori casa. E poi Nouriel Roubini firma un lungo articolo, una riflessione interessante, tante cose sulla stampa sempre. La bolla più grande della storia. Il sistema finanziario del mondo ricco si sta dirigendo verso un crollo. Per la prima volta in 70 anni si è avuto paura di una corsa indiscriminata a ritirare i depositi dalle banche, mentre il sistema bancario ombra, agenti, prestatori di mutui, non bancari, strumenti strutturati di investimento, hedge fund, fondi monetari di mercato e società di private equity, sta correndo rischi sulle sue passività a breve termine. Dal lato dell'economia reale, tutte le economie avanzate, che rappresentano il 55% del prodotto interno lordo globale, erano entrate in recessione anche prima del pesante shock finanziario iniziato alla fine dell'estate 2008. Di conseguenza ci troviamo oggi di fronte a una recessione, a una crisi finanziaria severa, a una profonda crisi bancaria nelle economie avanzate. I mercati emergenti hanno inizialmente subito le conseguenze di questa crisi solo quando gli investitori stranieri hanno cominciato a ritirare i loro investimenti. Poi il panico si è diffuso sui mercati di credito monetari e valutari. Questo ne leggiamo sul quotidiano La Stampa. Ora, se vogliamo spostarci dalla stampa al Sole 24 Ore, abbiamo già sentito dai GR che Aosta prima in qualità della vita. Vediamo che cosa leggiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. La classifica 2008, confermato il successo delle province alpine, sul podio Belluno e Bolzano, Caltanissetta in ultima posizione. Aosta prima e Caltanissetta ultima sono i due estremi della classifica 2008 della qualità della vita nelle province italiane, secondo i risultati delle indagini che il Sole 24 Ore del lunedì realizza ogni anno a partire dal 1990. Sono entrambe realtà di piccole dimensioni, una montana come la vincitrice dello scorso anno Trento e una siciliana come la 103esima della 2007 Agrigento, separate però dalle statistiche. Solo per fare qualche esempio, tra i 36 parametri utilizzati nell'indagine, 34.000 euro di PIL pro capite per gli aostani e meno di 16.000 per i nisseni, il 3% di disoccupati contro il 16%, una percentuale di stranieri superiore al 6% da una parte e dell'1,3% dall'altra, un indice di sportività pari a 481 ad Aosta, il quadruplo rispetto a quello di Caltanissetta. A tenere compagnia alla prima classificata altri rappresentanti dell'arco alpino, Belluno, Trento, Bolzano e Sondrio, mentre tutta nel mezzogiorno la parte più bassa della graduatoria, con 6 siciliane fra le ultime 10. Ai loro, insomma, cioè, non una bella notizia per la Sicilia. Quanto alle aree più grandi, arretrano Milano e Roma, entrambe escono dalle top 10 e si posizionano rispettivamente al 20° e al 28° posto della graduatoria. In discesa anche Torino e Napoli, insomma, però una discesa bella, bella ripida, insomma, perché non solo un spostamento di qualche punto. Abbiamo ancora poi abbiamo intanto tutte le tabelle del capolista dove si vive meglio. Consumi pro capite, concerti ogni 100.000 abitanti, bar e ristoranti ogni 100.000 abitanti, ricchezza pro capite, associazione di volontariato ogni 1.000 abitanti e protesti pro capite. Questi sono alcuni dei criteri. Poi la recessione colpisce anche i professionisti. Un altro servizio, i volti della crisi, dagli ingegneri ai notai, rallenta l'attività. Il rallentamento dell'economia comincia a produrre i primi effetti anche sulle attività dei professionisti. I più colpiti sembrano gli ingegneri e gli architetti, che lamentano un calo delle commesse di almeno il 30%, frenata anche per i notai, i commercialisti, tra le professioni mediche, i dentisti. Per gli avvocati invece il problema è rappresentato soprattutto dalla liquidità per i ritardi nei pagamenti. Questo leggiamo sul quotidiano Il Sole 24 Ore. E poi ancora 50 anni di biglietti fortunati. Vuoi vincere la lotteria? Passa da Roma. Dal 58 la capitale ha ricevuto 220 milioni su 1 miliardo di premi complessivi. Insomma, fortunati i romani. Questo Il Sole 24 Ore. Adesso voglio passare al quotidiano Il Messaggero. Gaza, raid e truppe ai confini. L'ONU, stop subito. Vediamo alcuni cosa ci propone Il Messaggero. Beh, intanto l'intervento di Shimon Peres. La ragione prevalga e porterà la pace. È la prima volta nella storia di Israele che noi israeliani non riusciamo a capire i motivi o gli scopi di chi ci sta colpendo. È la più irragionevole delle guerre, sferrata dai più irragionevoli miliziani. I fatti sono chiari. Israele ha lasciato completamente Gaza anche contro la propria volontà, a un prezzo altissimo. A Gaza non c'è più un solo civile o soldato israeliano. Abbiamo evacuato tutti i nostri insediamenti, cosa che ci è costata moltissimo. Questo dice e scrive Shimon Peres sul quotidiano Il Messaggero. Interessante se riusciamo poi a riprendere questo ragionamento di Shimon Peres. Come vi dicevo prima dell'interruzione, Il Messaggero ospita un intervento di Shimon Peres, presidente dello Stato di Israele, che dice: abbiamo dovuto mobilitare 45.000 poliziotti per far andare via i nostri coloni. Abbiamo speso 2,5 miliardi di dollari, i varchi sono stati aperti, sono stati inviati aiuti in denaro, abbiamo offerto aiuti in molti modi, economico, medico e quant'altro. Insomma, un'autodifesa quasi, diciamo, di Shimon Peres per giustificare, per spiegare perché poi questa reazione così violenta. Questo potrebbe essere il quesito. Israele non ha ambizione a Gaza, l'abbiamo lasciata di nostra scelta, non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di farvi ritorno, né ora né mai, ma non possiamo permettere che Gaza diventi una base permanente dalla quale minacciare e uccidere israeliani innocenti, i nostri figli. Dio solo sa per quale ragione. Ecco, questo è ora Hamas chiede aiuto al mondo arabo. La verità è che il mondo arabo deve fare appello ad Hamas nel suo stesso interesse. Se Hamas si fermerà non ci sarà bisogno di quell'aiuto. Tutto potrà tornare alla normalità. Varchi aperti, libertà di commercio, nessun intervento di Israele, nessuna sua partecipazione alle vicende di Gaza. Questo scrive sul Messaggero Shimon Peres per spiegare un dei tratti, diciamo, della guerra in corso. E ancora sul Messaggero, voglio anche questa volta citarvi un pezzo per quanto riguarda la rubrica che c'è sul Messaggero ormai quotidianamente, Dillo al Messaggero, insomma un modo per legare i lettori al giornale. Ho preso un biglietto aereo online, un'odissea a disdire, addio rimborso. Non riesce a cambiare il biglietto aereo perché nel weekend tour operator e compagnia non rispondono. Così il biglietto di ritorno va sprecato. È capitato a un dipendente dell'ENAV che ha acquistato per un'altra persona un biglietto da Roma a Kiev e ritorno. All'ultimo momento ha deciso di cambiare la data del volo di rientro come consentiva la tariffa pagata, ma sia venerdì che sabato non è riuscito a contattare il tour operator. Il biglietto era stato acquistato su internet nella compagnia aerea ungherese. Insomma, questo si dice si denuncia sul Messaggero. E poi ancora Matteoli contro la crisi, fondi alle opere pronti a partire dai 16,6 miliardi di euro sbloccati dal CIPE può venire una maggiore crescita del PIL pari allo 0,7% percentuale. Altero Matteoli, ministro delle infrastrutture, guarda con fiducia agli effetti del pacchetto di opere pubbliche approvato dal governo. Questo sul Messaggero vi dicevo. Adesso vogliamo dare uno sguardo al Giornale, perché il Giornale, che pure mette in prima pagina una foto drammatica di Gaza, e anche il Giornale ipotizza un attacco di terra da parte di Israele, vi dicevo che però l'apertura è ancora su Antonio Di Pietro, con note fortemente polemiche e soprattutto una notizia, diciamo così, scoppia la rivolta dei fan di Di Pietro. Dopo le notizie sull'inchiesta di Napoli, nei blog dell'Italia dei Valori sale la protesta. Tonino, predichi bene e razzoli male. Dov'è la coerenza? Butta fuori subito tuo figlio o questo partito chiude nel giro di 3 giorni. Questo è uno dei messaggi arrivati e che qui viene virgolettato. E viene affidato il commento a Paolo Guzzanti, un borghesuccio piccolo piccolo. Santo cielo, Tonino, scrive Guzzanti, ogni volta che l'ascolto mi viene in mente l'immagine, ero dietro di lei con tutta l'allegra ciurmaglia dei giornalisti di mani pulite, mentre si toglieva la toga e con un colpo di teatro abbandonava la magistratura. Che farà, ci chiedemmo tutti, l'uomo che aveva conquistato un posto nel presepe napoletano? Starà a destra o a sinistra? Ma è vero che Berlusconi gli ha offerto il ministero degli interni e che lui era nello studio di Previti quando fu raggiunto da una telefonata per cui disse di no, quando fino a poco prima sembrava incline? Lei è un politico che usa internet con sapienza e lei ha visto che cosa è successo nella sua casa virtuale e negli altri siti. I dipietristi sono insorti contro di lei, coloro che hanno creduto in lei sono corsi virtualmente con i forconi sotto le sue finestre. La gente li vuole i soldi indietro per l'ideale avariato. Questo scrive Paolo Guzzanti sul quotidiano Il Giornale. Come è stato possibile, di fronte alle vicende del figlio, della Campania, della magistratura, vada pure avanti ma anzi un po' indietro? Mi torna in mente questo suo figlio del Palazzo di Giustizia di Milano, ancora ragazzino, arruolato in polizia con la sua brava mitraglietta dietro al papino suo, con lei che gli dava ordini come un attendente, e quel ragazzo la guardava sprezzando amore però da ogni poro. Insomma, c'è questa lunga riflessione di Paolo Guzzanti, critica, molto critica nei confronti di Antonio Di Pietro, e che al quale il Giornale ha dato ampio spazio, tanto da dedicarci per l'appunto l'apertura e poi un'altra pagina. Il Giornale denuncia anche un'altra cosa, i guai dei democratici. Soru devia anche un fiume per fare un regalo a De Benedetti, Carlo De Benedetti. Imprenditore, finanziere e proprietario del quotidiano della Repubblica. Dopo le dimissioni da governatore della Sardegna firma un patto e lascia costruire un mega impianto elettrico al suo socio in Tiscali. Questo denuncia il Giornale. Il Giornale riporta in prima pagina poi un articolo, case popolari, l'assalto degli abusivi. mentre le liste di attesa scoppiano per le oltre 600.000 famiglie in emergenza abitativa, più di 40.000 alloggi sono occupati irregolarmente. L'Italia è divisa in due. A Bergamo nessun caso di illegalità. A Palermo un inquilino su quattro è fuori regola. Un viaggio nell'Italia dei diritti alla casa negato, tra i racket della criminalità organizzata e anziani costretti a barricarsi in casa per paura delle occupazioni lampo. Un'Italia dove la violenza dei pochi vince sul diritto di una maggioranza silenziosa. Questo un articolo di Beltramin sul quotidiano Il Giornale. Se dal giornale, c'è anche qui un articolo di Antonio Signorini a proposito di Brunetta: i cittadini sono con me. Poi ci sono state invece delle proteste del Partito Democratico per lo spot a favore di Brunetta fatto da Domenica In. E poi invece l'unità, vi dicevo, l'unità impotenti del mondo. Nessuno ferma il massacro di Gaza. Un anno dopo il vertice a Napoli è guerra, raid e morti. Israele prepara l'attacco di terra. Ecco, questa è una lettura. Scrive poi l'Unità, riporta anche una frase di Harold Pinter del settembre 2001: negli Stati Uniti le prigioni sono una grande industria i cui profitti vengono superati solo dalla pornografia. La parola libertà per un gran numero di esseri umani evoca solo tortura e morte. E Staino ci dice nella sua vignetta quotidiana: crisi economica, disoccupazione, migranti, Israele a Gaza, Berlusconi al governo, perché lo chiamiamo nuovo anno che sta arrivando? Questo si legge. Ma torniamo, Umberto De Giovannangeli scrive a proposito di quello che sta avvenendo a Israele: i raid dei caccia israeliani scandiscono il tempo di Gaza, tempo di guerra, oltre 240 obiettivi colpiti in due giorni, l'ultimo è l'università islamica. I miliziani rispondono con razzi che raggiungono Ashdod, 40 chilometri da Gaza. Dense nuvole di fumo nero oscurano i cieli di Gaza, il fragore delle bombe, gli edifici sventrati, il suono lancinante delle sirene delle ambulanze, i gemiti dei feriti, il pianto dei familiari delle vittime, una folla di disperati che abbatte la barriera metallica del valico di frontiera con l'Egitto per cercare una via di fuga. Rabbia, dolore, paura, desiderio di vendetta, una città cratere. E Gaza, nel secondo giorno di guerra, i raid israeliani si susseguono senza soluzione e continuità, giorno e notte. Il bilancio dei morti cresce di ora in ora, 300 secondo fonti mediche di Gaza City, almeno 400 stando ad Hamas. E ancora, i feriti sono oltre 800. Le strade di Gaza erano anche ieri quasi vuote, ad eccezione dei funerali delle tende per il lutto. Un anno dopo le grandi speranze aperte dalla conferenza di Annapolis, di nuovo guerra. Ecco, infine voglio ancora volevo segnalarvi questo obitorio, questo servizio fa una certa impressione. Gaza City, il reportage: obitori stracolmi, mai visti tanti cadaveri per le strade di Gaza. Lo scenario deve essere terribile. Ora io ho quasi concluso la mia rassegna stampa. Prima di concludere però voglio fare, e lo devo, un annuncio e un saluto al pubblico di Radio 24, assai numeroso in questa fascia oraria. Da domani non sarò più io a condurre la rassegna stampa. Non si tratta di una mia scelta, a decidere in tal senso è stato il nuovo direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Sono molto dispiaciuto perché per me la conduzione della rassegna stampa che mi fu affidata dall'ex direttore di Radio 24 Giancarlo Santalmassi è stata un'esperienza importante professionalmente e umanamente per il rapporto che ho consolidato con gli ascoltatori. A questo proposito, oltre alla stimatissima redazione di Radio 24, ai registi che mi hanno tenuto compagnia per tanto tempo, saluto gli ascoltatori che mi hanno seguito per più di un anno. Li saluto tutti, devo dire, sia quelli che con lettere e email hanno espresso consenso alla mia conduzione, sia quelli che hanno espresso critiche anche molto severe. Ancora una volta quindi un saluto e un abbraccio da Bruno Perini, e con questo mi pare di aver concluso il mio tempo della rassegna stampa. A tutti un buon lavoro.